Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis, ultima puntata questa sera prima della pausa estiva, ci risentiremo poi a settembre e con cui torniamo al tema che dà anche il nome alla nostra trasmissione, la grande sfida delle Smart City, delle città intelligenti. Oggi, grazie a un mix di sensori, di reti, di tecnologie GIS che consentono di geolocalizzare i dati, quindi di riferirli a oggetti che hanno anche una posizione nello spazio, e anche grazie alla capacità di elaborare enormi quantitativi di dati, è possibile immaginare di gestire in modo totalmente nuovo, più efficiente, più veloce, tutta una serie di servizi offerti normalmente dalla città. Si va dalla pubblica illuminazione alla mobilità, dalla gestione dei rifiuti a quella della burocrazia. Tutto questo potenziale si scontra però con una situazione di partenza in cui, tanto per fare un esempio, il comune che potrebbe controllare l'intensità luminosa di ogni lampione migliorando la visibilità, riducendo i consumi, in realtà molto spesso non sa nemmeno quanti lampioni ha, dove stanno, se fanno troppa poca luce oppure se ne fanno troppa e così via. Insomma, prima di poter governare la città come un grande organismo digitale bisogna avere una mappa digitale della città. Ed eccoci al tema di questa sera. Come si fa? Ci faremo dare una mano da Michele Masè, direttore generale di Studio SMA. Buonasera Masè. Buonasera a voi e agli ascoltatori. Allora, voi di Studio SMA siete specializzati come impresa proprio sui servizi per le Smart City. C'è in particolare una tecnologia che avete sviluppato in casa che si chiama GeoLander, da cui vorrei partire. Se ci descrive per cominciare appunto come funziona. Allora, innanzitutto, agganciandomi appunto alla sua premessa, il tema è quello di costruire un layout operativo all'interno di quelli che saranno gli smart data center, ossia i sistemi dove le comunità intelligenti terranno i loro dati su base open e georeferenziata. Parliamo appunto di questo ultimo aspetto, la parte di georeferenziazione. Noi abbiamo dotato degli automezzi sostanzialmente di apparecchiature di grande precisione, parliamo di precisione al centimetro, con dei laser scanner e delle telecamere. Questi, girando ovviamente per le città, sono in grado di sostanzialmente rilevare delle nuvole di punti che di fatto, diciamo così, sono la costruzione in 3D, la virtualizzazione di tutto quello che è il contesto. Sono tecnicamente quello che viene detto un campionamento, sostanzialmente questo laser spara in tutte le direzioni e illumina, no? Con dei puntini, esatto, appunto. 60 gradi. Quindi un laser che rileva tanti punti, ognuno di questi punti un punto di superficie, quindi viene fuori una nuvola di punti. Diciamo la fase di acquisizione. Benissimo. Ovviamente subito dopo c'è invece la fase di estrazione, nel senso che abbiamo elaborato alcuni tool software che identificano evidentemente quello che può essere il lampione della luce, quello Perfetto. Che può essere la segnaletica stradale, quello che può essere la tomonomastica, i numeri civici, il verde pubblico, l'arredo urbano, il patrimonio edilizio e via dicendo. Quindi avete un software con dentro delle routine, diciamo, che sono in grado di capire a partire da questa nuvola di punti, dice cercami tutti i pali della luce, sì, e lui li trova tutti, il quartiere, di tutta la città o di tutta la via, ovviamente avendo fatto prima il passaggio di acquisizione. Dopodiché ovviamente c'è la fase, invece la terza fase, che è quella di restituzione, e cioè il fatto che evidentemente tutte le volte, ad esempio, che il comune deve aprire un nuovo cantiere, deve fare un nuovo intervento, non avrà più la necessità tutte le volte di mandare la squadra in campo, ma potrà tranquillamente ovviamente ricostruire tutto tranquillamente dall'ufficio, tenendo presente che ogni singolo elemento può essere taggato e quindi io ci posso poi mettere il tipo di lampada, ad esempio, che monta, certo, cose di questo genere, manutenzione, ed è questo il motivo per cui il motivo per cui è utile avere queste grandi banche dati. Il problema, dicevamo, è costruirle. Ecco, qui abbiamo parlato un po', come dire, di una modalità per costruire un inventario degli oggetti fisici, lampioni piuttosto che cassonetti della spazzatura o altre cose presenti in città. Ci sono tutta una serie di altri aspetti della città, il rumore, il livello di inquinamento, di illuminazione, eccetera, eccetera, che si vorrebbe mappare. Mi chiedo se anche qui esiste un approccio analogo, quello del furgone che circola, insomma, e fa una mappa. Ma direi che in questo caso è più conveniente farsi aiutare da quelli che possono essere sensori, diciamo così, o distribuiti nel territorio o a bordo di persone e di mezzi che fanno parte un po' dell'Internet of Things e possono alimentare evidentemente lo smart data center di comunità. Per quello che è la vostra esperienza, che ruolo possono avere i cittadini invece attraverso le piattaforme anche social così nel partecipare, a popolare questi database di dati utili sulla città? Beh, io direi non solo i cittadini ma anche un po' tutti gli operatori economici. Innanzitutto abbiamo parlato di dati open e quindi sono e saranno fruibili a tutti, e dall'altra parte ovviamente chi è detentore di questi dati sicuramente può contribuire a costituire il database di comunità. Insomma, bisogna che poi ci sia partecipazione, non so, per esempio se l'azienda che gestisce l'acquedotto fornisce le carte dell'acquedotto. Certo, è indispensabile, anche perché c'è tutto il tema dei sottoservizi che vanno altrettanto mappati. Che non è facile mappare da sopra col laser, anzi quasi sempre è impossibile. Va bene, grazie, grazie Michele Masè. Grazie a voi. Bene, ci salutiamo, a questo punto ci prendiamo una pausa, anche noi ce ne andiamo in vacanza, ci risentiamo il 5 settembre, rimanete su Radio 24, comunque durante tutto agosto andranno in onda alcune delle puntate più interessanti, almeno così speriamo, dell'anno. Buona estate!